Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qui, buongiorno a tutti. Localizzate l'ombelico. Benissimo, adesso appoggiateci sopra la mano leggermente aperta. La mano si solleva, poi torna giù. Ottimo segno, state respirando, siete vivi, ma che cos'altro sentite? Con l'altra mano potete chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24. Brontolii, tensioni, bruciorini, un buco. Sono le 11:11, l'ora potrebbe essere quella buona. Uno strappo ogni tanto me lo concedo, a chi non è mai successo? Alla sera magari esci dal cinema, sei ancora sveglio, hai un buco allo stomaco, e allora è normale, vai al baracchino, lì al parco, da una parte un metronotte, dall'altra un travestito, e lì in bella compagnia un bel panino con la salamella, e ti fa: cosa ci metto dentro? Peperoni, cipolle, salse, ma sì, tutto, full optional. Bene, tutti conosciamo quella strana sensazione che ci fa dire un buco nello stomaco. C'è chi resiste, non lo ascolta, chi prova a chiuderlo, a metterci una toppa. Voi che fate? Su internet ho scoperto che Cameron Diaz, ad esempio, mastica chewing gum. Victoria Beckham sorseggia una tazza di tè verde. Ellis Harley punta su succhi di frutta e centrifugati. Stratagemmi da VIP, ma funzionano davvero? C'è da fidarsi o si può fare di più? 800 24 00 24. Ditemelo voi e intanto sentiamo che cosa ci dice la dottoressa Sara Farnetti, internista e nutrizionista. Buongiorno, bentornata. Buongiorno. Dottoressa, chewing gum le pare una buona idea per calmare il buco nello stomaco? Assolutamente no. Bah, non bocciata, è un'ottima idea. Bocciata Cameron Diaz. Perché? Perché non è un'idea intelligente. Masticare a lungo e masticare in modo cronico non fa altro che appunto liberare succhi gastrici. I succhi gastrici, quando vengono liberati in eccesso, non fanno altro che poi aumentare il senso di fame e di buco allo stomaco, che a volte, proprio perché la fame comincia a crescere, questa sensazione di mancanza si trasforma quasi in fame cosiddetta dolorosa, come se facesse male lo stomaco. Quindi immaginiamo di aumentare addirittura i succhi gastrici col chewing gum, cosa può accadere? Poi le gomme da masticare contengono delle sostanze che sicuramente non fanno bene né al metabolismo né alla nostra salute, che sono i dolcificanti artificiali, uno per tutti, l'aspartame, la cisulfame K, la saccarina, il sorbitol, il sucralosio, che appunto ormai è riconosciuto all'unanimità, si dice che non facciano bene. E allora dice: ma sì, ma che cosa sarà mai masticare una gomma? Beh, ricordiamoci che questi dolcificanti sono nelle gomme americane, come nel dentifricio, oppure nelle bevande, appunto i soft drink, quelli light, o in alcuni biscotti, negli yogurt non zuccherati cosiddetti. Sì. E allora basta mangiare una gomma, uno yogurt e lavarsi i denti, eccolo là che abbiamo superato la dose raccomandata, che è quella, la dose sicura. Oppure basta mangiare 4-5 gomme già per andare sopra la dose raccomandata giornaliera, che in realtà è la dose poi tossica, appunto dalla Food and Drug americana. Senta, dottoressa Farnetti, allora chewing gum no, non è una buona idea. Tè verde, come suggerisce la signora Beckham, mi sembra in ottima forma o no? Beh, il tè verde è sicuramente un'ottima bevanda, ricca di polifenoli, uno per tutti, l'epigallio catechin gallato, che è un potente antiossidante, depurativo. Come si chiama, me lo dica di nuovo, epita? Epigallio catechin gallato. Sembra uno scioglilingua. Sì. Ma è una catechina, catechina molto interessante, e la cosa più interessante è che inibisce la crescita tumorale, riesce addirittura a inibire la vascolarizzazione dei tumori. Ma il problema qual è? Per avere questo effetto bisogna berne tre tazze al giorno sicuramente, bisogna tenerlo in infusione prolungata e berlo entro un'ora, e soprattutto appunto il tè verde. Per risolvere il problema del buco allo stomaco probabilmente non è nemmeno questa l'idea giusta, perché il tè addirittura in certi soggetti scatena la gastrite, essendo ricco comunque di ferro, e poi appunto essendo un liquido non fa altro che lasciare il senso proprio di languore allo stomaco. Peggio ancora se zuccheriamo il tè, perché carità, se lo andiamo a zuccherare e non facciamo altro che aumentare gli zuccheri, che poi velocemente verranno rilasciati nel sangue, e subito dopo ci troviamo di nuovo scarichi. Magari se dobbiamo proprio bere qualcosa può essere interessante un centrifugato, ma di sedano e zenzero, non di carota, mela e banana, perché sennò siamo da capo a 12, non facciamo altro che ingerire degli zuccheri che poi ci lasceranno scarichi e quindi poveri di energie nell'immediata mezz'ora, quella successiva. E molti ahimè, bevono il caffè. Il caffè, a differenza del tè, sicuramente proprio perché è un liquido più concentrato, ci dà il senso più di stabilità, toglie un pochino la fame. Sì. Il problema qual è del caffè? Innanzitutto prende lo stomaco vuoto per chi ha problemi di gastrite, è terribile proprio perché il caffè è in grado di aumentare la secrezione acida gastrica. E poi il caffè comunque, anche in questo caso, se zuccherato, e abbiamo detto dolcificanti artificiali no, lo zucchero, e naturalmente alla fine prendere troppi caffè al giorno non fa altro che salire, far salire il bilancio appunto degli zuccheri assunti, e non c'è affatto utile. Quindi devo dire che noi siamo abbastanza tutti bocciati qua a Essere Benessere. Al 349-238-6666 mi arrivano diversi suggerimenti: la caramella, il chewing gum, il caffè, l'acqua va bene per spegnere il, per colmare un po' il buco? L'acqua può essere una cosa intelligente, io consiglio sempre beviamo acqua viva, perché anche l'acqua ha bisogno di essere attivata. E come possiamo fare? Per esempio bere un bicchiere di acqua con un po' di limone, il citrato del limone, che invece non fa male allo stomaco perché si comporta come non un acido quando viene ingerito, non fa altro che stimolare un pochino il metabolismo senza però creare languore, perché l'acqua viene, diciamo, assorbita più velocemente. Ma quello che dico io, dovremmo forse domandarci qual è la causa di questo buco, e piuttosto che cercare soluzioni al buco, evitare che appunto arrivi poi alle 11 questa fame dolorosa. Prima di dire allora che cosa dobbiamo fare per evitare il buco, però voglio sottoporle alcuni messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. Io ho detto siamo tutti bocciati, invece suggerimenti arrivano: provate con una prugna secca tenendo in bocca il nocciolo per mezz'ora. Bob da Parma: il mio buco lo soddisfo con una mela grattugiata mescolata con miele. Dottoressa Farnetti, le piace? Allora, probabilmente otteniamo in alcuni soggetti, mangiando ad esempio una mela, risolviamo il problema momentaneo e contingente. Però cosa ci costa, no? Cosa ci costa? Ci costa di aver ingerito altri zuccheri. Dato che stiamo trovando delle strategie, altrimenti mangeremmo un pezzo di pizza con la mortadella e avremmo risolto parzialmente il problema. Stiamo cercando strategie per ridurre quello che mangiamo, proprio perché adesso, vista dell'estate, vorremmo essere tutti in forma. Sì. Ebbene, tappare il buco con uno zucchero, quindi un alimento che poi fa produrre insulina e probabilmente ci fa ingrassare o vanifica gli sforzi che faremo durante il giorno, beh, non mi sembra intelligente. Certo, una prugna è una cosa piccola, minima, e può essere anche efficace utilizzata. Allora ci dia, dottoressa Farnetti, tre spezzafame, tre tappabuco intelligenti. Non devono essere zuccherati? Allora, innanzitutto dico sempre, pensiamoci prima, mangiamo a colazione in modo intelligente. Questa è una cosa molto importante. Facciamo una colazione intelligente che non ci dia il buco. E poi come lo tappiamo se proprio abbiamo sbagliato, che la mattina abbiamo mangiato la crostatina? Bene, ad esempio con delle mandorle, un pugno di mandorle, 7-8 mandorle, perché non sono zuccherine ma sono ricche di proteine e grassi e in più benefiche alla salute. Oppure, se possibile, siamo a casa, come dicevo prima, una centrifuga con pinsimonio, prendiamo un sedano, invece di centrifugarlo mangiamocelo nell'olio, sicuramente quello apporta vitamine, non zuccheri, l'olio ci dà la vitamina E e quindi ci fa anche bene, e soprattutto ci stabilizza la glicemia. Oppure un'altra idea può essere quella di mangiare pericolosi il cioccolato, l'abbiamo detto, cioccolato strafondente, amaro, il vero cioccolato, quello all'85-80% di concentrazione di cacao, non muove la glicemia, e prendere un pezzetto dai 15 a 20 grammi soddisfa, gratifica, e soprattutto non va a stimolare questo ormone che dobbiamo tenere buono, che è appunto l'insulina. Grazie dottoressa Farnetti per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e mi raccomando, qualche mandorlina, anche lei. Arrivederci. Buona giornata. Ho capito, ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima, no? Prima si prendono dei contatti, facciamo magari una telefonata. Buongiorno al professor Di Novaira, gastroenterologo e professore universitario di medicina interna dell'Alma Mater di Bologna. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno a tutti voi. E bentornato, professor Vaira. Professore, c'è una cosa che ci hanno detto sempre, a proposito, se me lo dicevi prima, e che non seguiamo quasi mai, che piacerebbe molto al nostro stomaco, perché lo farebbe lavorare in condizioni migliori: masticare bene. È la cosa più elementare, più semplice, ma in assoluto è il più grande suggerimento che possiamo dare a noi stessi per prima, perché noi ovviamente predichiamo bene ed assoliamo male, e quindi poi ai nostri radioascoltatori. Cioè, avere il tempo di masticare è fondamentale. Abbiamo già risolto il 50% dei problemi del nostro stomaco. Anna Rita ci chiama da Roma all'800 24 00 24. Anna Rita, buongiorno. Buongiorno, mi piace moltissimo la vostra trasmissione, per cui la seguo davvero con interesse. Bravi tutti quanti. Grazie. Sia lei che conduce e sia coloro che partecipano a dare i loro pareri. Dunque, io quello che volevo confermare, quello che dice il professore, in effetti la masticazione. Ho un'amica che finisce il suo pasto molto dopo, quando noi a tavola tutti insieme l'abbiamo terminato, e la vedo sempre molto in forma e magra, e questo conferma secondo me anche i principi della buona digestione e la buona assimilazione. Quello che volevo chiedere invece si riferisce a quella possibilità di spegnere il languore a metà mattina, abbinando insieme un piccolo pasto proteico, che potrebbe essere un pezzetto di parmigiano, un pezzetto di prosciutto, e poi però abbinarlo, che so, alla frutta, un piccolo frutto, un pomodoro. È vero che magari poi così, stando fuori casa, diventa difficile poter fare questo tipo di spezzafame, però potrebbe essere utile. Professor Vaira, che dice? Le dico, Nicoletta, che ho vissuto 4 anni a Londra, nella mia meravigliosa Londra, dove tutti, dagli infermieri, professori, medici, portieri, si portavano, c'è presente quella bustina marrone, e dentro cosa c'era? La classica mela. Vede, gli inglesi. E noi qua a Milano si dice la schiscetta. Ci potrebbe essere una schiscetta spezzafame. Naturalmente, come ci suggeriva la dottoressa Farnetti, riduciamo, eliminiamo gli zuccheri. Buono il consiglio di Anna Rita, che ringraziamo e a cui ricordiamo di masticare bene, soprattutto a pranzo. Oggi ci pensi, professor Vaira. A proposito di masticare, noi possiamo masticarli quanto vogliamo, ma ci sono alimenti che sono più difficili da digerire. Molto dipende dalla sensibilità individuale. C'è chi digerisce le pietre, chi va in crisi per un soffritto. È vero, perché il nostro stomaco con l'intestino rappresenta il vero cervello, no? È un punto di trigger, cioè, come giustamente diceva lei, c'è male allo stomaco, buco allo stomaco, cioè lo stomaco rappresenta il front line dei nostri sintomi. Non c'è un predubbio che gli alimenti che ha già sottolineato la dottoressa non vanno presi, e alludo al caffè, e me ne dispiace, lo so che mi diranno tutti in Italia. Alludo alla cioccolata, eccetto quella di cui faceva cenno la Sara, alludo agli agrumi, che sono ovviamente acidi, quindi arance, limone spremute di arance senza zucchero, e alludo, a questo punto metà Italia mi odierà ancora di più, al famoso pepe peperoncino, cioè i cibi piccanti, gli spicy food fanno male al nostro stomaco. Lo irritano? Lo irrita, è proprio così. Perché lui stimolano. Perché questo stomaco, professor Vaira, diciamo, non è fragile, è una persona sensibile, insomma, non gli va tutto a genio. Deve essere una cosa importante la digestione. Ho provato anche a metterlo un po' da parte, il peso, le cipolle. Sì, lo so, l'importante è digerire, devo digerire. Mangiare per non morire, ma digerire. Certo. E che più avanti vai, più ti trovi di fronte a certi cipolloni. Mangiare per non morire, ma digerire. Fate tutto facile voi. La mia vita è piena di cipolle. Anche lo stomaco non fa in tempo. Cipolla scuola, cipolla lavoro, cipolla sesso. Scuola, lavoro, sesso. Posso anche digerirli. Ma con la cipolla esistenza, come la mettiamo? Quante cipolle il mitico Giorgio Gaber, per cui ho una passione proprio di pancia. Grandissimo. Grande è un organo delicato, il nostro stomaco, che risente delle nostre abitudini di vita, ma che interpreta e in alcuni casi somatizza molte delle tensioni delle cipolle, no? Che proviamo. In realtà è un organo intelligente, cara Nicoletta, perché ci avverte che le cose non vanno così benissimo. Quindi è un organo che dice: vabbè, tu mi insulti, mi strapazzi, però io ogni tanto mi faccio sentire per dire attenzione. Non è che puoi fare veramente quel diavolo che ti pare ignorandomi completamente. Sono qui, e occupo la parte centrale del tuo corpo, e non a caso. Qua in studio con me c'è il professor Francesco Padrini, psicoterapeuta, è tornato a trovarci. Professore, sono contenta. Bene, saluto tutti. E nel preparare la puntata mi sono resa conto di quante volte nei nostri discorsi, nei modi di dire, tiriamo in ballo lo stomaco. Di una persona antipatica si dice: questa mi sta proprio sullo stomaco. Si dice un pugno nello stomaco per descrivere magari la violenza di un evento che ci ha spaventato, ha il pelo sullo stomaco, chi insomma è un dritto ma al tempo stesso non ha rispetto per nessuno. Insomma, i modi di dire dimostrano che, come ha anticipato il professor Vaira, che sotto sotto noi sappiamo che tra stomaco ed emozioni c'è un legame molto molto stretto. È vero questo, infatti lo stomaco è un organo, come dicevamo, molto sensibile, sensibile a tutto il mondo emotivo. Se noi viviamo una situazione, un'emozione positiva, sappiamo come questo può aiutare tutto il corpo e soprattutto tutti i processi che lo stomaco attiva di metabolizzazione, di digestione, e quindi noi riusciamo a creare un punto di transito attraverso questo punto centrale del corpo, che è proprio lo stomaco, per scendere poi e darci l'energia che noi abbiamo bisogno. Viceversa, situazioni più conflittuali, situazioni emotivamente non risolte, paure, conflitti, creano un blocco, un freno al cibo, alla digestione, a tutti i processi naturali, e questo blocco fa sì che noi ci sentiamo un peso sullo stomaco, un dolore allo stomaco, un'interferenza che qui abbiamo due vie: o la buttiamo fuori, la vomitiamo come fanno i bambini, i bambini si autoregolano, loro sono tutto istinto e quindi automaticamente vomitano, lo stomaco, dopo essersi rovesciato, si ristabilizza, si tranquillizza, la respirazione riprende, tutto si stabilisce. Ma l'uomo purtroppo rimugina, deve gestire tra il sì e il no, e questa gestione crea un conflitto e molto spesso la somatizziamo a volte nello stomaco. E infatti, professor Vaira, spesso il nostro stomaco si lamenta, lui chiediamo tanto, e appena sentiamo che non si comporta più come noi vorremmo o in qualche modo si fa sentire, noi tendiamo a metterlo a tacere senza neanche dargli il tempo di spiegarci e di dirci le sue ragioni. È proprio così, Nicoletta. Infatti prendiamo qualcosa, andiamo al bar, facciamo la cosa più sbagliata del mondo e prendiamo un bel caffè. E abbiamo l'illusione di averlo messo a tacere, in realtà gli abbiamo dato un altro bel cazzottone proprio diretto nel viso. Davide da Prato ci chiama all'800 24 00 24. Sentiamo se sa ascoltare il suo stomaco e soprattutto che cosa gli dice il suo stomaco. E questo un po' la domanda che voglio fare agli ascoltatori, che ci possono naturalmente chiamare al nostro numero verde per raccontarci anche come trattano il loro stomaco. Davide, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Mi sente? Io la sento benissimo. Anch'io. Senta, il problema mio è un po' collegato anche a quello che diceva il dottore, però non tanto per quanto riguarda la somatizzazione, ma per quanto riguarda il mangiare. Io dopo che ho fatto un bel pasto ho la pancia sempre gonfia, ma gonfia, me la sento proprio, a parte visibile, ma proprio anche si sente un senso di pesantezza, di costrizione. E non riesco a capire da cosa può dipendere. Ho fatto anche gli esami della celiachia, va bene, non ho particolari intolleranze, però io gonfio. Ma Davide, lei mastica? Io mastico e sono anche uno di quelli che ci mette parecchio a mangiare, perché quando mangio anche con i miei amici È quasi sempre l'ultimo a finire. E io finisco sempre più tardi. Professor Vaira, questo quanti è uno... Quanti anni c'ha Davide? Davide? Sì, Davide quanti anni ha? Il professor Vaira 40. Vuol sapere tutto. Quanti? 40. 40. Professore. Deve fare un test per le ricoverate, Davide. Perché ha fatto due cose molto importanti e molto giuste, ed è quella appunto di vedere se c'è un malassorbimento e se c'è una celiachia. L'altra cosa che deve fare è un test per il colesterolo, l'altra seconda cosa che deve fare è una banalissima ecografia dell'addome superiore. Quindi stiamo parlando di test non invasivi. Non invasivi, che non ci fanno paura, ma permettono di fotografare la situazione, e il professor Vaira citava l'Helicobacter. Professore, lei lo conosce bene. Questo. Ah sì, ma lo conoscono 25 milioni di italiani, non solo io. Certo. Perché questo è il numero di italiani che alberga questo batterio, e 15 milioni in realtà il loro stomaco, come lei dice, giustamente diceva, non si fa sentire, cioè sono quelli che dicono che digeriscono anche le pietre. Professore, quali sono i segnali che ci possono far sospettare che nel nostro stomaco questo ha trovato spazio, posto, si è insediato? Una sonnolenza post-pranziale, appena finito di mangiare, mannaggia, se non mi stendo un attimo non riesco, per esempio. La pancia giù gonfia, come giustamente diceva Davide, questo senso di nausea, quindi tutti sintomi vaghi, non sintomi belli caratteristici, questa difficoltà di digestione, quindi c'ho un mattone in questo stomaco, ho mangiato un'insalata e sembra che abbia mangiato come Obelix un paio di cinghiali a colazione. Professor Vaira, noi ci fermiamo perché diamo la linea ai mercati e al meteo. Il professor Padrini rimane con noi per farci capire, ad esempio, se siamo più uomini di pancia o uomini di testa, una divisione sommaria che ci racconta. Noi abbiamo intitolato la puntata Mordi la vita ma la digerisci, non a caso l'abbiamo chiamata così. La digerite e come fate? 800 24 00 24, aspetto le vostre telefonate. E nel frattempo io vi ricordo come sempre di andare sul nostro sito, perché c'è il nostro Daily Lab che vi aspetta. Un consiglio al giorno, e se i medici non mi sentono, per tirare via il medico di torno. Essere e benessere. Mi è venuta fame con tutte queste storie di cinghiali. Tanto più che è già passato mezzogiorno. Hai parlato a proposito. Adesso per la prova seguente dovrete mangiare tutto il pranzo che vi ha preparato Manneken Pix, il famoso cuoco dei giganti. Professor Vaira, lei ha citato Obelix e Miriam Lucchetti e Laura Vanossi hanno subito ricercato il file, quindi un po' è per lei Obelix. Per forza. Ringrazio molto per questo link. Dopo mangiato è un po' un punto delicato per molti degli ascoltatori di Essere Benessere che mi stanno scrivendo al 349-238-6666, chi ha dolore, chi si sente gonfio, chi si sente un uomo proprio seduto sullo stomaco. Questa è una sensazione che è abbastanza condivisa. Cercheremo di darvi qualche consiglio, ma intanto prima abbiamo Sergio che ci chiama da Milano. Buongiorno Sergio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sergio, il suo stomaco? Il mio stomaco adesso è a posto. Mi sono fermato e mi sono mangiato un gelato. Ero in auto. Mi avete fatto venire fame, sì. Sentendo parlare di buco allo stomaco è venuto anche a me. Io prima non lo avevo. Quando ho acceso la radio ho cominciato ad ascoltare, in realtà mi è venuta. E allora ho pensato bene, siccome ero in una zona di Milano dove so che c'è una gelateria dove fanno un gelato molto buono, un gelato artigianale, mi sono fermato e mi sono mangiato un cono, nocciola e panna montata. Però non credo di essere un buon esempio per i vostri ascoltatori. No, ma noi la prendiamo come esempio, Sergio. Lei ha fatto qualche cosa, ha scelto di pancia. Professor Padrini. Eh beh sì, è una scelta che viene dal profondo e quindi diciamo che non può proprio fare così male, anche se l'alimento non è magari quello giusto consigliato. Anche se il gelato, lo sappiamo, è un alimento completo. Sì, è un alimento completo, diciamo così. Professor Vaira, il gelato ci piace? Glielo lasciamo, via. Dai. È meglio il gelato che il caffè, perché bisogna comunque lasciare qualcosa. È come quando io lascio i pomodori ai miei pazienti, mi adorano. Carla da Macerata, buongiorno. 800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io ho fame nervosa, nel senso che il nervoso mi porta a pigliare e non posso ogni qualvolta prendere qualcosa per saziarmi o perlomeno per sconfiggere quella realtà. Quindi di conseguenza ho provato a prendere della crusca di frumento. Sì. Prendo qualche cucchiaiata di questa crusca, bevo acqua, e cerco di saziarmi. Però lei ci dice già che ho una fame nervosa. Ne vorrei parlare, sì, col professor Padrini, perché riconoscere che il tipo di fame è già un passo importante. Certamente, però è molto difficile, perché noi non ci accorgiamo che la nostra fame è una fame nervosa, e dovremmo guardarci un po' introspettivamente, vale a dire quali sono le cause di questa fame nervosa, e quindi dovremmo andare a scovare quelle che sono state le arrabbiature, i conflitti, le situazioni irrisolte, tutto ciò che non è stato espresso e rimane in stand-by, e questa stand-by ci crea una tensione cronica che si somatizza nello stomaco e ci crea anche un senso di fame nervosa che l'alimento poi, passando, riempendo, diciamo che lo satura parzialmente ma non definitivamente. Perché poi ritorna. Cristina, buongiorno da Bologna, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. La mia domanda era questa. Io riesco a mangiare oggi da una settimana, cioè dall'ultima... Scossa. Scusate, ma sono emozionata. No, lo credo, Cristina. E dall'ultima settimana sono riuscita a mangiare oggi perché lo stomaco si era chiuso, completamente chiuso. E mia figlia, per esempio, ha avuto una reazione opposta. Allora, la domanda è questa: quanto ne soffre lo stomaco? Io sono una buona gustaia, non sono una gran mangiatrice, io sono un aiuto cuoca, per cui mi piace mangiare, mi piace cucinare. Certo. A parte il fatto che per alcuni giorni non esiste più nulla, tranne la paura, però sì, lo stomaco mi si è proprio chiuso completamente. Professor Cristina, grazie. Stia lì. Grazie a lei e grazie di averci chiamato, e sono contenta di poter dare un consiglio con l'aiuto dei miei esperti a Cristina e alle persone che si ritrovano, si sentono, perché la paura fa chiudere lo stomaco. Professor Vaira. Il mago, il colpevole è questo nervo cranico, che è il decimo nervo cranico, che si chiama vago, che ci aiuta molto, ci fa respirare, ci fa battere il cuore, ci fa andare di corpo, ci aiuta a digerire, però quando siamo spaventati questo vago, come dire, è iperstimolato, quindi mi dà una specie di paralisi dello stomaco, quindi sazietà maledetta, anche se non abbiamo mangiato un fico secco. E Cristina, questa che ci la chiama diagnosi. Sì. La terapia è l'acqua. La terapia è l'acqua. I sorsini di acqua, pian pianino, naturale, non gasata, non fredda. Quella del rubinetto va bene, spero che lei non me ne voglia. No, assolutamente. assolutamente dei sorsini di acqua. Ecco, questa è un'indicazione. Cristina ci chiama da Bologna e quindi in questo momento è sottoposta ad uno stress continuo. Certo, Cristina, quindi certamente i sorsini di acqua tiepida ti possono creare anche un automassaggio interno lenitivo, e poi vedere di porsi, come dire, una parte, una mano in centro al petto e respirare insieme alla propria mano, autoconsolatoria in questo caso, o meglio, se c'è un parente, amico, una persona di fiducia, una persona che si ama, stringerlo proprio al petto con un bellissimo abbraccio che è altamente nutritivo e altamente rigenerante rispetto il blocco della paura, che è associabile al freddo e al tremore. L'abbraccio è associabile al caldo e quindi è un elemento di contrasto consolatorio. Cristina diceva, sono emozionata perché ci sta raccontando una situazione difficile che sta vivendo insieme a tante persone che hanno vissuto le scosse del terremoto, e professor Padrini, credo che parlarne, quando noi parliamo e raccontiamo un'emozione che, certo, ci sta attanagliando, è importantissimo. Sembra poco, ma intanto la morsa si allenta un po'. Questo è un po' il potere della parola, dell'abbraccio, della condivisione. Certo, io sono certo che Cristina in questo momento, col fatto di avere condiviso questa sua paura, in una certa qual misura un pochino si è alleviata ed è diminuita. Quindi un invito è quello proprio di poter comunicare e condividere verso persone possibilmente amate o verso le quali noi abbiamo fiducia e possiamo tranquillamente farlo. 800 24 0024, continuiamo a parlare delle emozioni che avvertiamo a livello del nostro stomaco, ma anche di come il nostro stomaco digerisce un po' la vita, come si fa sentire con dolori e che cosa facciamo noi per farlo stare bene. Vi aspetto dopo le informazioni sul traffico. Essere e benessere. Quello che è l'amore per l'anima è l'appetito per il corpo. Lo stomaco è il maestro che dirige la grande orchestra delle nostre passioni. Mangiare, amare, cantare, digerire sono i quattro atti di quell'opera comica che è la vita. Gioacchino Rossini. Ed eccoci qua, siamo tornati insieme. Mangiare, amare, cantare e digerire. Come digerite voi? 800 24 00 24. Salvatore, buongiorno, ci chiama dalla provincia di Milano, benvenuto. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo portare un attimino la mia testimonianza, la mia difficoltà proprio sul fatto della digestione. Io ho ridotto abbastanza le quantità di cibo, soprattutto nel pasto di mezzogiorno, però nonostante questo mi trovo sempre con dei problemi di sonnolenza, con dei problemi di gonfiore. Anche la frutta l'ho eliminata per ridurre anche gli zuccheri e la formazione di... queste problematiche. Sì, di gonfiore, di questa sensazione di pancia sempre ingombra. Professor Vaira, vede che la sonnolenza insieme alla tensione dolorosa ritorna. Ma per forza, perché così dobbiamo aggiungere due cose che non abbiamo ancora detto, che sono fondamentali, e ancora una volta ho timore di farmi dei grandi nemici: il peso. Il peso. Quello lì. E l'attività fisica, numero due. Quindi più siamo pesanti, più il nostro stomaco fa fatica a digerire, indipendentemente da quanto mangiamo? Assolutamente sì. E più ovviamente non facciamo nulla, e più ovviamente tutti i nostri visceri reagiscono in maniera molto rallentata. Lei sottolineava l'importanza anche dell'attività fisica. Una passeggiata, dicevano i nostri nonni, aiuta a digerire, certo, a pulire un po' la mente dalle preoccupazioni, ma spesso dopo proprio un'attività fisica, specie se lo sforzo è intenso e prolungato, anche lì il nostro stomaco si lamenta. Allora, se siete così in forma, perché non correte la 10 km con Dana? Dai, che bello! La corsa è la prossima settimana. Mancano 3 giorni alla gara. Fammi vedere che ne hai un bel paio. Va bene, ma sono sfinito. Non ce la faccio proprio più a correre su questa geggio. Non ce la faccio. Scordatemelo. Accidenti, che faticaccia. Eccoli qua, sforzi intensi e prolungati sembrano prendere a pugni il nostro stomaco, molti sportivi lamentano più che dolori muscolari, una morsa proprio a livello dello stomaco che si accompagna a senso di nausea o di vuoto. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Professore, che cosa succede? Perché a pagarne le spese è lo stomaco, quando invece sappiamo che un po' di moto lo aiuterebbe a funzionare meglio? Ma diciamo che senz'altro, a parte l'attinenza ovvia della capacità di assimilazione degli alimenti dello stomaco per poi essere trasformati in energia fisica, c'è anche una connessione importante da riferirsi a livello di medicina tradizionale cinese. Una cosa molto curiosa, se vogliamo, interessante, è il fatto che dal nostro stomaco parte proprio un canale, un meridiano energetico, che percorre tutta la parte laterale della coscia fino alla parte laterale della gamba e arriva al secondo dito del piede. La cosa interessante è che laddove vi sono delle tensioni, delle preoccupazioni dell'atleta, sovente anche a livello diaframmatico c'è un blocco della capacità, diciamo, respiratoria, digestiva, e questo atleta ha dei deficit. Allora sì. Per esempio, ci sono anche degli esercizi importanti che si possono fare per cercare di sbloccare, per così dire, questa tensione a livello diaframmatica e dinamizzare questo canale energetico così importante nell'attività motoria. Quindi l'invito è, se siete sportivi, se fate sport, dopo che avete fatto la vostra corsa o sollevato i pesi o fatto insomma uno sforzo intenso e prolungato, avvertite un peso allo stomaco. Professor Tirelli, che cosa facciamo? Un esercizio. A quel punto, un esercizio che potremmo spiegare così ai radioascoltatori è di appoggiare una mano al muro, mentre con l'altra mano cercare di afferrare il piede dello stesso lato. Sì. Il classico stretching, proprio il classico stretching che vediamo fare per esempio dai calciatori quando uno si appoggia all'altro. Allora, se io tengo questo piede e lo porto verso dietro, verso la chiappetta col tallone sulla gluteo. Sul tallone sul gluteo, mi corregge giustamente, il tallone possibilmente al gluteo. Ecco, già quello è un bel test, perché per mia esperienza gli atleti e le persone che hanno uno stomaco, per così dire, un po' duro, lo dico in modo molto grossolano ovviamente, comunque bloccato, fanno fatica a fare questo stretch. Però la cosa importante, l'attenzione particolare, è che il ginocchio deve andare possibilmente dietro rispetto alla linea dell'anca. Quindi questa è una cosa importante. Sto provando, il mio stomaco si vede che insomma si allunga bene anche con il tacco. Il professor Padrini è testimone. Testimonia, bravissima. E quindi mettiamo il tallone sul gluteo, tiriamo in modo che il ginocchio sia più indietro rispetto all'anca tutte le volte che, facendo attività fisica, il nostro stomaco si lamenta. E questo è anche un test per valutare, ci racconta il professor Tirelli, come se il nostro stomaco è flessibile. Professor Vaira, lei è capace? Non ci penso nemmeno. No, direi che comunque l'importante in quell'esercizio è anche la respirazione, è molto importante. Più è profonda l'inspirazione e l'espirazione, maggiore è la capacità di allungamento del nostro quadricipite, quindi di tutta la muscolatura della coscia anteriore. Grazie professor Tirelli per essere stato con noi. Professor Vaira, in chiusura, vogliamo raccontare, dare due o tre consigli per digerire bene? Digerire a 360 gradi, vita e alimenti, nutrimenti, tutto quello che è nutriente. Ma fondamentalmente quello che ha detto la prima dottoressina è assolutamente sacrosanto. Noi, se riuscissimo a fare un'abbondante colazione, un pranzo normale, una cena light, abbiamo fatto bingo per i prossimi 50 anni. Sì, tutto quindi, questo. Realtà, escludendo solo gli irritanti, che quello che abbiamo detto poc'anzi, ossia il caffè, la cioccolata, gli agrumi, il vino bianco, lo sparkling, cioè il frizzantino bianco, quello è un'altra cosa che ci fa veramente male, il pepe, il peperoncino, per esempio la carne si può mangiare, la pasta si può mangiare, il pane si può mangiare, il pesce si può mangiare, la frutta e la verdura si possono mangiare, i latticini perché no? Quindi l'ottica è che i nostri ascoltatori devono essere felici innanzitutto. Certo, questo è un aspetto molto importante, perché la gioia, il piacere che sviluppa le famose endorfine, crea benessere e quindi una vasodilatazione e quindi una gioia di vivere. Questo è un aspetto magico. Letizia ci scrive: parlandone, il dolore si divide e la gioia si moltiplica. E fa riferimento, immagino, alla telefonata della nostra ascoltatrice che ci ha chiamato da Bologna. Io saluto e ringrazio il professor Vaira. Grazie professore per essere stato con noi. E aggiungiamo anche: masticate lentamente, vero? Assolutamente. E aggiungiamo, professor Padrini, quando siete molto preoccupati, avete un affanno, qualche cosa, non mettetevi subito a mangiare che rimane sullo stomaco. Fate una passeggiata, date tempo alla vostra pancia di pensare, di rielaborare, liberate quindi, il cervello. Liberare il cervello, qualche momento di stop, qualche respirazione un po' più approfondita e poi riprendere. E domani di nuovo insieme. Grazie per essere stati con noi, a Carmelo Lauricelli in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi e Miriam Lucchetti in redazione. Grazie, a domani. Radio 24. La passione si sente. Essere e benessere.